ever was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Seems we got a cheaper feel now, all the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like a baby. There must have been a nice price she's putting on her stupid love. This is not really, this is not really happening. My day, my day. Il problema non è la caduta, ma è l'atterraggio. Dal film La Haine, Francia, 1995. It's a pill out the watchword, just a pill out the watchword. Was a good solution. Ciao a tutte, oggi vorremmo aprire la trasmissione con delle osservazioni sulle elezioni politiche che si sono appena svolte. Prima di tutto per noi femministe analizzare queste elezioni è molto importante, analizzare quello che è successo, perché capire come si muoverà il quadro politico è importantissimo per non farci strumentalizzare. Perché la strumentalizzazione è una delle caratteristiche fondanti di questo sistema socio-economico, politico, del neoliberismo in particolare, la strumentalizzazione delle diversità, delle donne, dei diritti umani sul fronte interno, qui da noi, sul fronte esterno, con le guerre neocoloniali. Il Movimento 5 Stelle è il primo partito alla Camera col 25-55 dei voti. È chiaro che è una posizione di protesta che raccoglie adesioni trasversalmente e che ha posto il problema del rifiuto dei partiti tradizionali. Allo stesso tempo però dimostra che gli italiani si affidano ancora al gioco democratico, cioè il fatto che abbiano votato un movimento, un'organizzazione, un qualcosa che partecipava al gioco istituzionale vuol dire che credono ancora che questo abbia un qualsivoglia valore, seppure in un discorso di rifiuto della modalità tradizionale, di protesta, di dichiarazione di alterità, no? E, diciamo, l'astensionismo è aumentato del 6% ed ha raggiunto livelli del 25% più o meno adesso. Sì, no, infatti, voglio dire, questo trend, diciamo, nell'astensionismo che si sta avendo, in realtà leggevo qua nei dati che comunque è un trend che in realtà va avanti già dagli anni 70 in quasi tutte le elezioni che ci sono state sia a livello nazionale che regionale. E, però la cosa strana è che comunque insomma c'è stato una notevole intensità, cioè quindi l'intensità di avanzamento dell'astensionismo è notevole, perché infatti comunque ci stanno, qua dice la percentuale di votanti è stata del 75% e quindi qua dice comunque circa 6 punti percentuali in meno rispetto al 2008, che era già una forte diminuzione rispetto anche al 2006 così e via. E quindi comunque è una cosa che già da un po' va avanti, no? Diciamo che il problema dell'astensionismo è duplice. Perché da una parte l'astensionismo noi abbiamo spinto per una posizione astensionista, perché chiaramente siamo contrari a partecipare al teatrino istituzionale che risponde a interessi precisi, ogni partito ha un ruolo preciso, noi siamo altro, vogliamo altro, siamo al di fuori, non ci prestiamo a questa strumentalizzazione. Però l'astensionismo di questo tipo, cioè chiaramente ci sarà sicuramente una percentuale, speriamo che sia di questo tipo, e però c'è effettivamente quello che diceva Laura, un trend astensionista comunque nei paesi capitalisti di un certo tipo, tant'è vero che negli Stati Uniti siamo arrivati a percentuali di astensionismo molto molto alte. Sì, però questo proposito c'è anche da dire che appunto nel caso, guardando lo scenario europeo, si vede che comunque questo trend di astensionismo è un fenomeno normale, anche se comunque c'è da dire che in Italia comunque è tra i maggiori, diciamo gli elettori sono ancora parecchi rispetto agli altri, perché infatti qua dice che nell'ultima tornata solo in 5 paesi su 15 sono andate a votare percentuali di elettori maggiori che in Italia, quindi comunque diciamo che rispetto a altri paesi che sono stati colpiti dalla crisi tipo Portogallo, Spagna e Grecia, comunque non c'è stato l'astensionismo che si aspettava comunque. No, perché l'astensionismo in effetti può essere di due tipi. Può essere l'astensionismo che è una presa di coscienza di alcune cose, comunque delle dinamiche del cosiddetto gioco democratico, e può essere invece un tirarsi indietro sapendo di non contare nulla all'interno dei giochi di potere. Cioè sono due posizioni completamente diverse. Constantly in the darkness, where's that hand? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada Oh, Canada. And I sketched your face on it twice. Oh, you were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Sì, infatti, diciamo che sempre parlando di astensionismo, come diceva Elisabetta, noi abbiamo comunque fatto una campagna dei manifesti astensionisti. E naturalmente quello che noi auspichiamo è una partecipazione attiva alle lotte che si producono sui territori, sui posti di lavoro, e quindi non è un astensionismo di distanza dalle proprie rivendicazioni, ma invece una presa di coscienza e una partecipazione reale a quello che invece ci riguarda direttamente, quindi senza più delegare a partiti quelle che sono le scelte che riguardano la nostra vita. È una scelta di consapevolezza, sì. Di fatto, no? Allora, eravamo rimaste che il Movimento 5 Stelle ha preso il 25,55, quindi è il primo partito alla Camera. Allora, contemporaneamente un partito come il PD, che è assolutamente liberista, ha ancora il 25,41 dei voti. E questi sono voti che sono rappresentati da un popolo che si sente formalmente di sinistra, però che ha interiorizzato le posizioni estremamente reazionarie e intolleranti di quella che infatti è, possiamo definire, destra moderna, cioè il PD di sinistra non c'ha più, c'ha formalmente il nome che usa ancora in maniera strumentale, ma è esplicitamente la destra moderna. E questo interiorizzare le posizioni reazionarie facendole cioè pensandole di sinistra è il risultato di tutto quel meccanismo che possiamo definire il politicamente corretto, che è stato portato avanti per anni e che è un'arma fortissima di manipolazione delle coscienze. No, ma cioè, infatti una cosa che ho letto interessante diceva il fatto che appunto è evidente che comunque questa diciamo crisi che avrebbe dovuto portare a un maggiore astensionismo, crisi della rappresentanza, se vogliamo chiamare così, in senso più ampio, in realtà si è scontata col fatto che comunque c'è una gran parte di cittadini, diciamo, se vogliamo dirli così, della sinistra, no? Che hanno questo senso civico, insomma, del votare la sinistra per bene, che quindi comunque continua a ritenere veramente scandaloso. Cioè, a me è capitato in questi giorni di dovermi rivendicare, insomma, comunque delle posizioni di astensionismo, pur appunto essendo nota comunque la mia, voglio dire, le mie posizioni. Quindi comunque non è, è una cosa che voglio dire, in questi giorni comunque è stato, è come i mondiali, tutti a parlare di queste elezioni, perché il grande evento, no? Cioè, si ricollega un po' anche a quelle cose che dicemmo l'altra volta, cioè dei calendari e degli orologi, insomma, sugli eventi, perché comunque la gente si sente di partecipare a qualcosa, di prendere una decisione, cioè senza proprio consapevolezza. È la grande truffa del sistema parlamentare, sì, democratico, sì. No? Sì, la preoccupazione poi di far fronte al debito, comunque in realtà a problematiche che non sono reali. Esatto, Allora, poi Berlusconi e il PDL hanno recuperato moltissimo. rispondendo a esigenze addirittura banali del loro elettorato, perché hanno chiarito che loro hanno come referente, l'hanno detto esplicitamente, la piccola e media imprenditoria nazionale. E il PD invece noi sappiamo che ha i referenti fuori, nelle multinazionali angloamericane. E infatti il PD si è guardato bene dal fare anche qualche piccola affermazione fattiva reale che potesse riguardare una qualche modifica dello Stato, se non ha parlato di grafici, di mercati, di banche, di spread, di spread e affini, ma si è guardato bene dal fare qualsiasi tipo di affermazione effettiva, no? Allora, che cosa succede? Che Berlusconi e il PDL, tutto sommato, hanno dato una risposta, che poi quello che faranno, quello che manterranno, comunque si sono fatti carico di dare una risposta a quello che secondo loro è il loro elettorato, cioè l'imprenditoria nazionale, la borghesia nazionale. Allora, poi un'osservazione che la responsabilità politica di aver consegnato l'Italia al PD e quindi al neoliberismo sfrenato è del SEL, perché il SEL ha dato il 3% che ha permesso al Partito Democratico di avere il premio di maggioranza. E questo sinceramente per pura ambizione personale, perché il SEL sparirà assolutamente come partito. No, infatti per il premio di maggioranza la coalizione di centrosinistra alla Camera avrà la maggioranza sicura, mentre al Senato no. Quindi si pone per il PD il problema di come muoversi, come gestirsi questa situazione. No? Allora, il PD ha già dichiarato da una parte la sua apertura al Movimento 5 Stelle, però è un gioco delle parti, perché il Movimento 5 Stelle, lui sa benissimo che non ha nessuna, assolutamente, c'è una distanza talmente grande che non gli dirà assolutamente di sì, un'alleanza è improponibile. Però che cosa succede? Che aprendo al Movimento 5 Stelle, sapendo già che il Movimento 5 Stelle gli dirà di no, lui si copre le spalle per un altro tipo di alleanza, perché dice: ma come, io ci ho provato, mi hanno detto di no, quindi si alleerà con Monti, cercherà un altro tipo, avrà le spalle coperte, la giustificazione, quindi è tutto un gioco, non è che il PD vuole veramente l'alleanza col Movimento 5 Stelle, tanto sono assolutamente incompatibili. Però allo stesso tempo c'è anche un altro tipo di gioco, cioè il PDL si è offerto come alleato al PD, però sapendo che il PD non lo potrà mai accettare o non potrebbe mai accettarlo, dato che ha demonizzato Berlusconi. Praticamente Berlusconi è stato sempre presentato dal PD come il peggiore dei mali in assoluto, il diavolo in persona, e quindi non si potrebbe permettere un'alleanza del genere. E in questo caso infatti il PDL ne esce pulito, perché lui, rispetto alla gestione e alla quella che chiamano governabilità, ha dato una possibilità, perché ha aperto alla gestione del PD. Allora, che strada rimane al Partito Democratico? Il Partito Democratico, cioè, assisteremo sicuramente all'assalto del PD ai deputati del Movimento 5 Stelle, però un assalto ai deputati preso uno a uno, cioè si tenterà di comprarli in qualsiasi modo. Bisogna vedere come risponderanno, quanti cederanno, quanti si venderanno, perché se non dovesse funzionare questo metodo, in alternativa o in contemporanea, verranno buttate in pasta all'opinione pubblica le loro vicende private, verranno orchestrati scandali. Noi sappiamo che il gioco politico si è assolutamente imbarbarito, cioè praticamente non hanno più scrupoli di nessun tipo. Quindi il Movimento 5 Stelle sarà, sul Movimento 5 Stelle si abbatterà questo duplice tentativo di comprarlo in qualche modo, ma non come movimento, come singoli, perché il movimento non accetterà mai di un'alleanza col PD, però i singoli verranno sottoposti a tutta una serie di sollecitazioni molto pesanti, da tanti punti di vista, sia ricattatorie che di gratificazione, che di prebende, di svariatissimi tipi. Diciamo, io sono d'accordo con quello che diceva Elisabetta, anche perché il Movimento 5 Stelle non è un movimento reale, è un movimento virtuale di singoli che non hanno avuto un confronto reale su da un punto di vista anche teorico di cambiamento di questa società. Quindi ci si incontrano su magari alcuni punti specifici, però non c'è una visione globale, né tantomeno appunto un orizzonte comune. Sicuramente non c'è un orizzonte di trasformazione, sì, di questa società, tant'è che molti che ne fanno parte sono appunto imprenditori che fanno appello alla come movimento. Sì, non è assolutamente un movimento. No, ma infatti c'è una cosa che appunto è da notare, che il fatto che comunque quando c'è il riferimento che fa anche Grillo, insomma, rispetto ai candidati, cioè, del movimento e in generale ai componenti del Movimento 5 Stelle, sono i cittadini, quindi generico, un tutto, e appunto trascurando qualsiasi dinamica di classe, qualsiasi diseguaglianza, e riducendo anche a un notevole individualismo quello che diceva anche Elisabetta rispetto al fatto che li compreranno uno a uno, perché effettivamente comunque, cioè, lui pone molto l'accento sul fatto che sei uno, conti, e quindi anche molto questa meritocrazia che secondo me anche si nota molto dai suoi discorsi, insomma, e che quindi appunto è anche molto rischioso rispetto a invece quelle che sono poi in realtà le istanze su cui si basano i movimenti che realmente cercano di cambiare comunque questa società in qualche modo, e fondamentalmente quindi, cioè, io ho letto anche una cosa interessante che diceva il fatto che appunto Grillo ha un po', anzi, ha, come posso dire, difeso questo sistema, perché in qualche modo ha incanalato delle forze evidentemente comunque ormai ostili rispetto a una determinata politica, un determinato modo, insomma, di vedere la politica, e è riuscito a incanalarle in questo modo virtuale di appunto una partecipazione virtuale, perché io veramente ho sentito, insomma, persone dire no, io mi sono sentito di contare qualcosa, cioè veramente, e anche insomma mi hanno raccontato che il discorso in piazza è stato molto così umano, siamo insieme, che bello, cioè veramente qualcosa completamente staccato anche dalla realtà, cioè quando tu dici non esiste, veramente questa è la parola, cioè la sensazione è questa, insomma, cioè. Champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what our money's worth. Those who sow misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me. All those material things you gain by exploiting other human beings. Consume more than you need. This lover will make you queen. Won't I lonely have it all prearranged? Grave that's deep and wide enough for me and all my mountains. Oh, thanks. Oh, they tell me still the time to save my soul. They tell me renounce all, renounce all those material things you gain by exploiting other human beings. Mostly I feel low, lonely. It's gonna take all my mountains of thanks to surround me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Comunque sono stati premiati in ogni caso i quelli, chiamiamoli partiti, comunque i gruppi, i movimenti eccetera, che hanno dato in un modo o nell'altro dato delle dichiarazioni di alterità rispetto alla politica dell'austerità in maniere diverse, perché il Movimento 5 Stelle è una cosa, le esternazioni del PDL sono un'altra, però sicuramente c'è una opposizione alle politiche neoliberiste. Allora, rispetto a noi femministe, la comprensione di quello che succede è molto importante per un motivo. Perché visto che ci saranno delle difficoltà nella gestione del potere, quindi nella gestione e nella formulazione, nell'approvazione di quelle che sono le cosiddette riforme che il PD vuole fare per cambiare l'Italia, noi sappiamo in che direzione, aiuto, aiuto, c'è la possibilità reale che il PD porti di nuovo in piazza la gente. Voi vi ricordate non direttamente, ma attraverso movimenti costruiti ad arte, cioè come ha fatto con Se non ora quando, in funzione anti-Berlusconi, come ci sono state c'è stata la manifestazione per l'articolo 18 quando Berlusconi aveva osato toccare l'articolo 18, poi invece quando l'hanno toccato sul serio, siccome non gli interessava più farlo in funzione di Berlusconi, allora in piazza non hanno portato nessuno. Per cui il PD ha la capacità, attraverso strutture non direttamente, formalmente non legate a lui, ma che in effetti sono legate a lui, di fare un tantam mediatico, di sollecitare vasti strati della popolazione a scendere in piazza contro decisioni o a favore di decisioni che verranno prese o non verranno prese. Quindi noi dobbiamo stare estremamente attente come femministe, perché le donne sono un campo forte di strumentalizzazione, come sono un campo forte le diversità, come sono un campo forte di strumentalizzazione i diritti umani. E quindi dobbiamo avere sempre molto chiare le lotte che facciamo, come ci muoviamo, e stare molto attente a non prestarci a questo gioco. We'll be right back. terminare con una nota, cioè che questo risultato elettorale mi ricorda molto quello che è successo in Grecia. Perché? Perché in Grecia Syriza, che raccoglieva tutto il dissenso rispetto alle politiche neoliberiste, ha raccolto il 27%. Nuova Democrazia, il 30%, che praticamente era quella che cioè era la portatrice dei valori proprio neoliberisti, e si è alleata col PASOK, che è il Partito Socialista, che aveva il 13%. Che cosa è successo? Che una percentuale alta di dissenso è andata ai neonazisti di Alba Dorata, che hanno preso il 7%. Perché? Perché questo non è successo in Italia? Non è successo in Italia perché il PDL, portando avanti un dissenso rispetto alle politiche neoliberiste, almeno entro certi limiti e almeno nei confronti dei suoi referenti elettorali, ha impedito che il voto di protesta della destra andasse ai fascisti e ai neonazisti. Siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. E per chiudere, diciamo, questa prima parte di trasmissione, volevamo ricordarvi alcuni appuntamenti che fanno riferimento appunto a lotte reali sui territori. E volevamo infatti leggervi alcune parti di un volantino del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, e che poi diciamo con cui chiediamo, insomma, la partecipazione a tutti e tutte alle prossime assemblee e alla prossima mobilitazione. E intanto, per ricordarvi, insomma, quello che sta succedendo, vi leggo alcune parti di questo volantino. La regione pretende l'avvio del cantiere dell'inceneritore entro il 7 marzo, e il Consiglio di Stato fa ripartire l'arrivo dei rifiuti da Roma nella discarica di Roncigliano. La regione infatti non ha solo prorogato al 2015 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, ma ha anche diffidato il COEMA stesso ad iniziare il cantiere entro il 7 marzo il gestore servizi energetici a completare l'accordo definitivo per assegnare i fondi pubblici a Cerroni. L'apertura del cantiere avvierebbe alla definitiva catastrofe del territorio circostante, e sarebbe anche la fine delle tutte le attività agricole, della perdita dei DOP, dei DOC e di centinaia di milioni di milioni sottratti alla collettività. Oltre a portare come ulteriore conseguenza l'aumento del già insopportabile peso delle patologie. Quindi i prossimi appuntamenti sono le per il giovedì 28 febbraio alle ore 17 in piazza San Pietro ad Albano per assemblee pubbliche, e venerdì 1 marzo alle 18 di fronte alla circoscrizione di Cecchina, e poi il 2 marzo, sabato 2 marzo dalle ore 8 per una giornata appunto di mobilitazione di fronte ai cancelli della discarica. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Coscienza di genere, coscienza di classe. L'ideologia neoliberista, falsificando le scritture storiche, si presenta come un credo, come la forma suprema della realizzazione umana. Nella vita quotidiana questo si trasforma nello sviluppo dell'individualismo, nella preminenza progressiva della merce su ogni altro elemento, nella mercificazione di tutti i rapporti, compresi quelli sociali e affettivi, nel dominio del denaro, nella cultura che viene ridotta a mode che si susseguono con l'apparire esibizionistico che prende il posto dell'autonomia individuale. Nel revisionismo storico accompagnato dall'appiattimento della storia stessa sull'evento immediato e l'informazione istantanea, nella strumentalizzazione delle lotte di liberazione delle diversità e la cooptazione di elementi provenienti da etnie, ceti, culture oppresse che in cambio della loro personale promozione sociale partecipano attivamente all'oppressione degli ambienti da cui provengono. E ancora, fuga dal conflitto, disaffezione progressiva dalla politica, nobilitazione della violenza repressiva e delle guerre neocoloniali, con la moltiplicazione dei passaggi verso l'atto violento fatto dai cittadini e dalle cittadine verso chi è o viene percepito e percepita come diverso e più debole. Accettare questa lettura della storia come natura significa leggere la nostra oppressione di genere come frutto naturale e non come stratificazione imposta nei secoli dalla società patriarcale, così come si è andata configurando nelle varie epoche storiche. Come femministe siamo consapevoli che la nostra liberazione passa attraverso la liberazione di tutti gli oppressi, per cui è necessario svelare e smontare i meccanismi di oppressione che questa società mette in atto. Per uscire da questa situazione bisogna sconfiggere l'idea padronale della divisione fra lotte sindacali, di genere, economiche e politiche. Le lotte vanno ricondotte a unità, ma non come somma matematica, ma come sintesi politica. E per fare questo bisogna sapere distinguere fra conflitto capitale-lavoro e lotta di classe. Il conflitto capitale-lavoro è endemico e connaturato all'irriducibilità degli interessi contrapposti di cui sono portatori i lavoratori e le lavoratrici e il padronato. L'esito di questo conflitto non è mai scontato, può portare a soluzioni socialdemocratiche in periodi di espansione economica, ma anche a soluzioni reazionarie. Noi donne non dobbiamo permettere che le nostre lotte siano relegate ad una generica conflittualità fra i sessi, ma dobbiamo incentrarle sul processo di liberazione. Fare la lotta di classe significa lottare per riconquistare la libertà, la dignità, la vita. La lezione che si può trarre è che il crinale è l'assunzione della coscienza di classe, ed è questo il terreno dello scontro, e questo è valido anche per noi donne rispetto alla coscienza di genere. Ciao! Allora, oggi poiché è l'ultimo giorno, cioè l'ultima puntata del mese, la seconda parte era dedicata a quel apostrofo che non hanno il genere ma hanno la classe, che però poiché è ammalato non può essere qui, quindi ci ha mandato il suo contributo che ora leggerò io. E dal titolo, Dennis sì, che leggerò io, e dal titolo Il voto LGBTQI ai tempi dell'omonazionalismo. Sul palco di Sanremo abbiamo potuto vedere il video di Stefano e Federico, coppia omosessuale, non nella sua versione integrale. La parte nella quale si baciavano è stata tolta per amor di moralismo. In un paese catto integralista come questo pare tuttavia che basti veramente poco per scatenare una bufera. Giovanardi, già noto per precedenti sparate lesbofobiche, ricordo che a inizio 2012 ha affermato che un bacio lesbico sarebbe non troppo diverso dal pisciare per strada, sostiene che questo sia uno spot abusivo a favore di vendola in periodo di par condicio. Si richiama alla società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. Quando bisogna giustificare un'oppressione è sufficiente fare affidamento sul concetto di natura, costrutto che non ha niente di naturale e tutto di culturale. Raffaele Zanon e Alberto Romano Padrina, entrambi facenti parte di Fratelli d'Italia, il primo candidato al Senato e l'altro alla Camera, fanno un video di risposta nel quale campeggia la frase «Vota con la testa e con il cuore, non votare con il culo». Noi amiamo le donne, in particolare Giorgia Meloni. Peccato per loro che la Meloni insieme a Guido Crosetto sia corsa al riparo, realizzando a sua volta un video dove si dissocia dai due dalla loro omofobia. Curioso che a dire ciò sia proprio la stessa persona che ha manicata con Casa Pound, certamente non nota per le istanze arcobaleno, che fino a poco prima era alleata con Berlusconi, il quale afferma a cuor leggero che se in Italia non c'è l'eutanasia legale, il matrimonio gay, la fecondazione eterologa, è tutto merito della sua coalizione. Sempre in tema di esibizionismo, anche una coppia di Forza Nuova ha pensato bene di fare ancora un altro video, il cui slogan è «Noi Romeo e Giulietta, voi Sodoma e Gomorra». Sarebbe bene far loro presente che sia Romeo che Giulietta sono morti suicidi e che se proprio vogliono essere i paladini dell'eteronormatività dovrebbero imitarli anche in questo. For the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry the burden of pain. 'Cause it ain't the first time that a man Allora, continuando sempre con diciamo l'intervento che ci ha mandato Dennis, leggiamo, continuo a leggere. Giocando con le parole si può dire tutto e il contrario di tutto. È possibile dire che si accetta l'omosessualità, purché non la si ostenti. Frase che tradotta significa fai quello che vuoi, ma non osare rivendicare nulla. Che chi si arrabbia di fronte a dichiarazioni omofobiche è isterico e sostanzialmente moralista, nonché espressione di un paese intristito, e che l'omofobia in sostanza ce la siamo inventata noi poveri cretini che non sapremmo cogliere il suo superbo umorismo. Così dice Zanon, a detta sua, tra l'altro, non sarebbe affatto omofobo, bensì starebbe solo difendendo i valori della famiglia naturale. Paragonandoci infine al braghettone, similitudine infelice, poiché a differenza di tanti timorati di Dio, la vista di un nudo non ci turba affatto. Si calcolano le idee di questa gente in base a formalità e aria fritta. In sostanza, però, tutto cambia per non cambiare nulla. In campagna elettorale sono tutti capaci a piazzare nei programmi intenzioni per recuperare il voto delle anime belle, matrimoni, ma sì, legittimiamo un'istituzione reazionaria piuttosto che fare in modo di slegare le nostre necessità da un'unione, candidate arcobaleno e tante altre belle cose. Come se l'aria non fosse già satura dell'autoritarismo del romanticismo mainstream, il quale, riassunto in un dialogo, potrebbe essere così: vuoi essere per sempre il mio buco e la mia lavapiatti? Giuro che indorerò la pillola con tanti adorabili bimbi chiassosi e una cultura che giustifica questa inenarrabile stronzata. Oh sì, per sempre. Ci sono un po' ovunque manifesti che si rifanno all'amore, amore ovunque, di qui, di là, siamo tutti innamorati. Tutte e tutti innamorate e innamorati, guai al sesso occasionale, guai alla promiscuità, guai alle eventuali non monogamie, purché ci sia il consenso e la consapevolezza di tutte le parti coinvolte, chiaro. Molto meglio mettersi le corna ed avere qualche ex partner da demonizzare in virtù del perpetuare gabbie, piuttosto che stare tutte insieme felicemente e apertamente, se è questo ciò che desideriamo. Her neon mouth with a blink-a-toss smile, nothing but an electric sign. You could say she has an individual style, she's a part of a carnival time. Super steel lady, chrome covered clothes you wear, cause you have no other. But I suppose no one knows you're my plastic fantastic lover. Never shuts off, it's nothing but a used machine. Her aluminum finish, slightly diminished, is the best I ever have seen. Continuo, sempre dall'intervento di Dennis. E invece no. Bisogna assolutamente continuare a sguazzare nel cattolicesimo e nelle retoriche dominanti, anche se in salsa LGBTQ. Uniti per sempre, e vai. Ai tempi dell'omonazionalismo votiamo chiunque ci prometta qualcosa che con ogni probabilità non si farà, e se si farà non sarà comunque una conquista vera o qualcosa di realmente utile. Proponiamo manifesti in cui facciamo emergere un soggetto politico gay, normato, perfetto e attraente secondo i canoni di bellezza che impone la società. Bianco, di classe media, preferibilmente maschio e possibilmente non transgender. Non è un caso se nelle tante campagne che si fanno manca il tema dell'identità di genere. Per fortuna c'è chi vuole dividersi, essere individualità e non annullarsi in nulla, sia esso lo Stato, il capitalismo, il patriarcato oppure la coppia. Franti. Chief stood for law and order. allora volevamo darvi i nostri indirizzi per scriverci. L'email è coordinamenta@autistiche.org, mentre l'indirizzo del nostro blog è www.coordinamenta.noblogs.org. E in chiusura vi vogliamo far partecipi di un'iniziativa che abbiamo fatto ieri mattina, nel nostro, come coordinamento, nel nostro percorso verso l'8 marzo, che si inquadra in quello che noi cerchiamo sempre di fare, cioè di mantenere il rapporto tra teoria e pratica, che è una delle caratteristiche della coordinamenta, che ha sempre fatto lavoro, che i cui gruppi hanno sempre fatto lavoro territoriale e allo stesso tempo hanno fatto lavoro teorico, e l'una cosa rimanda all'altra in un rapporto dialettico. Quindi ieri siamo state in un luogo di lavoro in cui si intreccia pubblico e privato, e la sede centrale dell'INPS a Roma, e a confrontarci con le donne che vi lavorano, perché riteniamo che l'imposizione e la costruzione dei ruoli funzionali a questa organizzazione sociale sia una delle cause portanti dell'oppressione di genere, però non è riconducibile solamente ai ruoli sessuati, bensì riguarda l'imposizione della gerarchia e dei ruoli in ogni ambito sociale e soprattutto nel mondo del lavoro, in cui viene riproposta pesantemente la meritocrazia, vengono riproposti l'individualismo sfrenato, la corsa alla promozione individuale, alla competizione, alla cosiddetta produttività, e quindi lo scardinamento dei ruoli per noi non passa soltanto portando le questioni di genere negli ambiti di genere, ma portando le questioni di genere collegandole anche a quelli che sono altri luoghi come quello del lavoro. Per concludere, appunto, volevamo leggervi alcune parti del volantino che abbiamo distribuito ieri. E allora, l'attacco al lavoro e allo stato sociale è attacco ai tempi e spazi della nostra vita. L'attacco alla qualità della vita è attacco forte alle donne, che vengono caricate della gestione della quotidianità in maniera ancora più pesante e che vengono ricattate economicamente, perché il taglio di salari e stipendi significa diminuzione della possibilità di indipendenza economica. Il neoliberismo ha riproposto pesantemente sui luoghi di lavoro il controllo, la meritocrazia, la gerarchia, l'ossequio all'autorità, che significa promozione di tutti quelli e quelle che sono disposti al servilismo, alla concorrenza spietata e alla svendita personale. Allo stesso tempo ha colpevolizzato chi lavora, dandogli la responsabilità del presunto indebitamento dello Stato e del presunto malfunzionamento, mentre le scelte sono sempre state politiche, i soldi e le risorse sono state investite e continuano a essere investite altrove, nelle guerre neocoloniali, nelle spese militari, nell'apparato poliziesco e di controllo, nel mantenimento delle basi NATO, nei mille rivoli per il mantenimento di questo sistema. Molte donne che hanno raggiunto posizioni importanti e svariati livelli sono diventate attive nel mantenimento dei sistemi di oppressione nei confronti delle altre donne. Le tassazioni sono diventate altissime, la caccia all'evasore fiscale non è altro che la scusa per tassare e controllare pesantemente tutti e tutti. Strutture come Equitalia sono il mezzo per poter prosciugare fino all'osso le cittadine e i cittadini, non certo per far pagare quelli che appartengono alla classe dominante e che non fanno mai pagare se stessi. Lottiamo e auto-organizziamoci per rifiutare il controllo dell'orario di lavoro e i tornelli, rivendicare gli spazi e i tempi di pausa dal lavoro, rifiutare la meritocrazia, rifiutare la colpevolizzazione. Rifiutare la colpevolizzazione, già abbiamo un doppio lavoro che non vorremmo e che questa organizzazione sociale getta sulle nostre spalle. Figuriamoci se ci dobbiamo scusare. Dobbiamo organizzarci da sole, rifiutare la delega, riprenderci gli spazi, riprenderci la vita e ne abbiamo una sola e non la vogliamo regalare a nessuno. Ci vediamo mercoledì, ci sentiamo mercoledì prossimo alla stessa ora. Alle 8 su 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao. Ciao. E vi ricordiamo una cosa al volo che ogni tanto ci dimentichiamo, che venerdì primo c'è la riunione della coordinamenta alle 19.30 come al solito al 22. 22 in via De Valci 22. Ciao. Ciao. Ciao. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. With my hands I could be here. They must have paid her a nice price. She's putting on a stupid love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Solution.